Merda italiana. Oggi è il grande giorno, la rivolta è cominciata. Per le strade e nei quartieri la lotta sarà spietata. Abbiamo sempre lavorato per sfamare un padrone, ma oggi è il giorno della paga, scoppia la rivoluzione. Coltello, non posso. Riprenderemo le nostre città. Coltello, non posso. Ripuliremo le nostre città. She's done.